Una storia che pare ripetersi, il non riconoscimento delle elezioni, il tentativo di far fallire l'inizio di un nuovo governo, non solo Trump negli Stati Uniti d'America, ma anche Bolsonaro in Brasile, e non solo loro. Lo schema è quello del rifiuto dell'idea di democrazia liberale, fallita da anni e messa sotto scacco dalle destre post-fasciste e ultracapitaliste nel mondo, per di più occidentale, pronte a tutto per tenere il potere. Martedì scorso i procuratori brasiliani hanno accusato l'ex presidente Jair Bolsonaro e altre 33 persone per un presunto tentativo di colpo di Stato per impedire l'insediamento del presidente in carica, Luiz Inácio Lula da Silva, dopo le elezioni del 2022. In questo tentativo di golpe c'è anche l'idea e la possibilità di avvelenare lo stesso Lula. Secondo l'accusa, l'organizzazione criminale era guidata dallo stesso Bolsonaro e dal suo candidato alla vicepresidente di allora, il generale Walter Braga Neto. Entrambi hanno accettato, incoraggiato e compiuto atti tipici della legislazione penale di attacco al bene giuridico dell'esistenza e dell'indipendenza dei poteri dello Stato di diritto democratico, ha scritto il procuratore generale Paolo Gonet. Secondo l'ufficio dello stesso, l'idea è stata pianificata già nel 2021, dopo che il Supremo Tribunale Federale aveva annullato le condanne contro Lula, consentendo al leader del Partito dei Lavoratori, il PT, di candidarsi alle elezioni presidenziali del 22. Secondo il Procuratore Generale della Repubblica, il piano era chiamato Pugnale Verde Giallo, fu progettato e comunicato dall'allora Presidente della Repubblica, che lo approvò nello stesso momento in cui fu pubblicato un rapporto in cui il Ministero della Difesa fu costretto a riconoscere l'inesistenza di brogli nelle elezioni. L'indagine, durata 2 anni, ha rivelato come il gruppo abbia articolato il piano golpista con l'intenzione di ribaltare l'esito del voto utilizzando l'esercito, la maggior parte dei cui generali, tuttavia, non ha appoggiato il piano. Dopo le elezioni vinte da Lula l'8 gennaio 2023, centinaia di sostenitori di Bolsonaro hanno attaccato gli edifici istituzionali di Brasilia, quelli del Supremo Tribunale Federale, del Congresso Nazionale e del Palazzo Planalto. Secondo l'accusa, Bolsonaro era anche a conoscenza del complotto pronto ad assassinare lo stesso Lula, così come il suo vicepresidente Geraldo Alckmin e il giudice del Supremo Tribunale Federale Alexandre de Moraes. Più che l'investigazione in sé, c'è il senso della vicenda, il fatto che personaggi come Bolsonaro non escono indeboliti da rivelazioni come questi, anzi rafforzate. Una parte crescente della popolazione non ha interesse per la difesa delle storie democratiche liberali e non teme gli strappi, anche violenti, che i loro paladini suppostamente antipolitici fanno alle maglie del diritto. Lo vediamo in Brasile, l'abbiamo visto con Trump negli Stati Uniti, con Bukele in Salvador, ma anche nella sempre più triste Europa, dove le simpatie per personaggi autoritari, vedi Putin, o a chi grida a frodi elettorali e complotti a non farli vincere, si veda la pagina Le Pen in Francia, fanno sempre più presa. Il caso Bolsonaro interroga sul futuro di un mondo che per reggere gli squilibri del capitale si sposta sempre più su modelli autoritari, con il beneplacito di chi è più povero e che, nonostante tutto, stanco dei tradimenti della politica tradizionale, crede in questi personaggi. Le democrazie liberali hanno fallito, sono diventati strumenti nelle mani del capitale. Ora, per non votarsi ai Milei, ai Bolsonaro, ai Trump, alle Le Pen e a tutte le destre post-fasciste del mondo, servono nuove idee, grandi progetti e grandi sogni.